Con Anna Maria Gallone, per sapere quali sono i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2021 e anche per fare un po' un bilancio personale dell'annata cinematografica. Ben trovata e auguri. Grazie, altrettanto. Che ci dici? Innanzitutto partirei dai film passati al mio festival, perché sono molto contenta di aver programmato dei film che poi sono andati nel cinema. Quindi comincerei da Adam di Mariam Tuzani, un film apparentemente semplice che però tiene col fiato sospeso sulla vicenda di due donne diverse tra di loro ma che arrivano a un'intesa comune meravigliosa, rivendicano una sessualità femminile repressa, un film estremamente sensuale a partire dal come impastano il pane, come si guarda nello specchio, come prevedono il parto per questa ragazza che è stata tagliata dal villaggio. Quindi un film che riserva tante emozioni pur essendo girato in modo piuttosto classico, in un ambiente tipicamente tradizionale maghrebino. Però devo dire che al suo primo film Mariam Tuzani ha fatto veramente un piccolo miracolo. Poi l'altro film che mi ha molto colpito e emozionato è stato L'uomo che vendette la sua pelle, che ha avuto il premio Orizzonti al miglior attore al 77° Festival di Venezia ed è un film secondo me straordinario. La sua regista è una donna molto coraggiosa che già in un film che aveva fatto precedentemente, La bella e la bestia, ma ancora prima Le panali tunisi, in cui raccontava di uomini che tagliavano le cosce alle donne con un tagliere quando erano vestite in modo, secondo loro, troppo succinto. Lei ama questi temi e in questo caso questo film, diciamo pure impressionante, è un'idea folle e provocatoria da parte di Kauter Ben Amiah. È quello di un uomo fuggito dalla Siria e Libano che vende proprio la sua pelle, la sua schiena, perché un artista molto eccentrico dipinga un visto Schengen che gli permetta di andare finalmente in Europa al sicuro. E comunque è una visione folgorante e simbolica, è molto controversa, trasgressiva, mi piace. E devo dire che quest'uomo che pensa di affrancarsi si trova invece ad essere proprietà di un nuovo padrone che addirittura lo vende all'asta. Quindi nel film c'è anche una Monica Bellucci nel ruolo di Soraya, l'assistente dell'artista, assolutamente insignificante, devo dire, con parrucca bionda non così importante nel film. Però è un'opera così ambiziosa che veramente mette tanta carne al fuoco. Forse nella seconda parte è meno impressive, però è veramente una nuova riflessione sul mondo dei rifugiati e anche sulla commercializzazione che è la base del mondo d'oggi. Quindi mi è piaciuta moltissimo. Poi dal Maghreb invece andiamo in Spagna con Madres Paralleles di Almodóvar, che mi ha molto divertito perché in questo film c'è davvero tutto. Un paese che fa ancora i conti col passato, bambine scambiate in culla, relazioni clandestine con antropologi forensi, sposate con donne che stanno morendo di tumore, poi però guariscono miracolosamente, case bellissime, felpe miu miu, un po' di tutto, e insomma fa anche risorgere il bisnonno per poter riesumare il passato, e devo dire che nell'insieme ha tutta una vasta gamma di toni. Alla fine mi sono chiesta se ho appena visto la più bella delle telenovele o un film palpitante dell'ultimo dei registi epici. Ecco, sono rimasta un po' divisa su questo, però mi è piaciuto nell'insieme. Bene. Poi, di questo si è parlato tanto, è stata la mano di Dio. Torniamo all'Italia, comunque sempre il sud, Napoli. Questo Sorrentino mi è piaciuto molto. Mi ha emozionato, mi è piaciuto proprio questo per la prima volta proporre personaggi comuni in cui lo spettatore si può riconoscere. Tutti i toni del film mi sono piaciuti, quelli grotteschi, quelli felliniani, quelli intimisti e poi questo amore per il cinema e nell'insieme, vabbè, si è detto molto, mi basti dire che l'ho amato tantissimo. E l'ultimo è quello di Zhang Yimou, un secondo, penso che tutti i cinefili l'abbiano amato. Allora, questo regista della quinta generazione che sembra sempre opporsi al regime, però poi in parte fa dei passi indietro, però in questo film, dopo una prima parte un po' rocambolesca con il celluloide che viene rubato per vedere la figlia per un secondo da questo prigioniere dei campi di rieducazione, la bambina che lo ruba perché vuole fare il paralume per il fratellino, ecco, tutta questa parte è simpatica, un po' rocambolesca, però la seconda in cui veramente c'è cinema, c'è tutto l'amore di Zhang Yimou della Cina per questa cosa meravigliosa che è il film nella sua essenza così fragile e così potente, e questo mi ha commosso molto. E invece di come si sta trasformando il cinema, la fruizione, ma anche un bilancio qualitativo di quella che è stata l'offerta, che dici? Devo dire prima di tutto, sempre rifacendomi al mio festival, che molti distributori che avevano acquistato il film, a cui ho chiesto di poter programmare il film in apertura del mio festival, hanno detto no, perché pensiamo di uscire presto. Ecco, la maggior parte di questi film non sono mai usciti e quindi questo è un primo bilancio un po' triste, perché c'è un rallentamento dell'uscita in sala. L'altra cosa che mi colpisce molto, ma anche questa è una cosa molto discussa, se sono scritti fiumi su questa faccenda, come questi film importanti di grande valore vengono immediatamente passati sulle piattaforme. Io devo dire che personalmente ne sono felice, perché riesco a vedere non solo gli hamburger americani finalmente, ma anche dei bei film di valore, però questa cosa secondo me per le sale insomma è molto svantaggiosa e quindi il bilancio dello scorso anno non è positivo assolutamente, che ci sono state troppe remore dovute a tante incertezze. Io penso che i distributori sono stati veramente sballottati tra si esce, non si esce, ci si ferma, sale con sedili distanziati, insomma è stato un anno tormentato. Anna Maria, un abbraccio, ci sentiremo nel corso dell'anno, ancora auguri e a presto. A presto, grazie.